24 mattino. L'Italia si desta. Buon venerdì, un saluto da Anna Migliorati. Ve l'ha detto, ve l'ha anticipato ieri, Alessandro Milan si è preso giustamente anche una giornata di pausa anche per lui, e quindi a destarci presto questa mattina siamo noi. Niente giornata di pausa per il nostro Lorenzo Nespoli, che è qui puntuale in redazione, Carmelo Lauricella in regia. Siamo pronti per cominciare anche questa mattinata. La rassegna stampa, come sempre, dopo il giornale radio delle 7. Chissà se qualcuno di voi aveva mai sentito parlare prima di ieri della sindrome di Barnù. Pare che abbia anche un nome quella follia per cui alla guida di un aereo ci si chiude in cabina, ci si suicida, ma con 150 persone alle spalle. Una vicenda di cui parleremo molto questa mattina, perché fa veramente impressione. C'è chi sta coniando anche dei neologismi. Eppure era già successo nella storia dell'aviazione, perché c'è alla fine sempre anche quel fattore umano, che con tutti i sistemi di sicurezza di questo mondo forse è davvero la cosa più imprevedibile e assurda. 349-238-6666, i vostri SMS li aspettiamo anche questa mattina. Intanto però cominciamo questa giornata in una maniera un po' diversa, un po' particolare. Andiamo in qualche modo nel futuro, alla Star Trek. Nostri ospiti di questa mattina, Nicola Pugno, docente del Dipartimento di Ingegneria Civile e Meccanica a Trento. Buongiorno, ben svegliato. Buongiorno a voi. Le avevo promesso un caffè virtuale per lei, naturalmente anche per tutti gli ascoltatori, così come un caffè ve lo offriamo qui da Milano anche a Federico Bosia dell'Università invece di Torino. Buongiorno. Buongiorno. Allora, stamattina poi parleremo anche d'altro, l'abbiamo già anticipato, ma intanto vogliamo un po' così far in qualche modo sognare i nostri ascoltatori, portandoli un po' in quello che forse ci aspetta nel futuro, perché Nicola Pugno e Federico Bosia si occupano di quella che ormai si chiama la ricerca estrema. Che cos'è la ricerca estrema? Beh, insomma, diciamo che c'è chi va in montagna e si accontenta di scalare la montagna dietro casa, e chi decide di andare sul K2 o sull'Everest. Anche fare ricerca non è sempre la stessa cosa, perché Pugno, lei cosa studia? Ce lo racconta? Sì, noi studiamo ormai da anni materiali dalle proprietà tuttora irraggiungibili, in questo senso potremmo definirli un po', diciamo, estremi, nel momento che avranno proprietà, qualora scoperte, qualcuno l'abbiamo già fatto recentemente, hanno proprietà che poco prima non potevano essere raggiunte da materiali tradizionali, quindi materiali estremamente resistenti. Per fare un esempio molto recente, abbiamo scoperto il materiale più resistente in assoluto, che non è, come si pensava prima, la seta del ragno, ma sono i denti delle patelle di quelle conchiglie che rimangono attaccate alle rocce. Stiamo cercando di lavorare su materiali dalle proprietà di tenacità, quindi grande capacità di dissipare energia, che sia ancora maggiore di quella che è della tenacità della seta del ragno, che era quella che deteneva il record, per così dire. Stiamo facendo studi di meccanica sostanzialmente. Vabbè, cerchiamo di farlo capire un po' ai nostri ascoltatori. È un po' questo. Accidenti, mi è morso qualcosa. Oh, è solo un ragno. Ma perché mi sento così strano, così diverso? Insomma, potremo in un futuro un po' anche noi giocare a fare l'uomo ragno. Insomma, la ricerca estrema è un po' questo, andare a cercare quel che c'è di meglio in natura e riprodurlo. Ma saremo l'uomo ragno? Sì, la ricerca è estrema è anche questo. In passato abbiamo studiato anche proprio tute, incidentalmente proprio tute da uomo ragno, in realtà si dovrebbero chiamare più tute da uomo geco, perché cercando di mimare le caratteristiche visive del geco, che sono le massime che si ritrovano in natura, superiori anche a quelle del ragno, abbiamo cercato di fare di portare a una scala superiore queste caratteristiche e quindi ottenere materiali adesivi dalle caratteristiche simili a quelle che sono necessarie per sospendere non un ragno ma bensì un uomo. Sono cose che si possono fare. C'è chi ci scherza, ma voi avete dei finanziamenti seri, sono ricerche vere. Noi dobbiamo ringraziare moltissimo l'European Research Council, che ci ha finanziato un progetto su materiali bioispirati, super materiali addirittura si titola il progetto, quindi che ricorda un po' questa cosa estrema che citava lei, super materiali gerarchici bioispirati, cioè ispirati alla natura, e su questo progetto stiamo lavorando molto, è un progetto che dura 5 anni, è stato finanziato con 1 milione di euro. Ecco, 1 milione di euro avete, sì, a disposizione? Sì. E alla fine di questi 5 anni qual è l'obiettivo? L'obiettivo è andare a progettare, in qualche caso realizzare materiali con proprietà appunto che oggi non si vedevano ma che sono necessari, perché molto spesso oggi alcune applicazioni sono limitate proprio dal materiale stesso. Il problema è che il materiale poi a un certo punto si spacca, questa cosa qua limita le applicazioni. Noi oggi cerchiamo di andare verso materiali che non sono solo più resistenti in assoluto, no? Pensate un po' alle fibre di carbonio per esempio. Le fibre di carbonio sono il materiale praticamente più resistente che oggi abbiamo alla scala diciamo dell'uomo, cioè di cui possiamo fare manufatti anche macroscopici, no? Di tessuti che sono nell'ordine, che hanno dimensione caratteristica nell'ordine del metro. Noi possiamo fare dei giubbotti antiproiettile con delle fibre di Kevlar per esempio, no? Allora facendo questa cosa qua noi riusciamo sostanzialmente, cerchiamo di per esempio produrre delle fibre che abbiano una tenacità per esempio superiore a quella del Kevlar. Non c'è solo il problema di resistenza, è anche un problema di tenacità, che sono due cose in contrasto. Addirittura molto spesso la scienza dei materiali tutto sommato cerca un po' di andare a scoprire quei materiali che siano al contempo resistenti e tenaci, e sono due concetti diversi, perché la tenacità è qualche cosa legato anche a quanto l'oggetto si deforma, quindi si deve poter deformare tanto per dissipare molta energia, non è sufficiente. Allora, semplicemente non abbiamo imprigionato Alessandro Milan in nessuna tela del ragno, state tranquilli, lunedì torna, ma intanto noi ne approfittiamo e parliamo anche di queste estreme ricerche. Bosi, a lei a Torino invece di cosa si occupa, cosa stiamo cercando che ci porti nel futuro in qualche modo? Ma anch'io collaboro col professor Pugno su questo genere di ricerca. Diciamo, la nostra è una ricerca su materiali estremi, però la facciamo dal sicuro del nostro ufficio con metodi numerici prevalentemente. Noi a Torino, che è un po' più tranquillo. Sì, a Torino noi ci occupiamo più della parte numerica dello studio di questi materiali. Altri esempi che possiamo fare sono ad esempio i cosiddetti metamateriali, che sono un concetto che è stato proposto abbastanza di recente per un tipo di strutturazione periodica nei materiali che permetterebbe la deviazione o la riflessione di onde di qualsiasi frequenza, anche onde sismiche, quindi estremi in questo senso. Si può pensare a delle strutture che possano proteggere delle infrastrutture critiche, ospedali o industrie chimiche. Qual è l'invenzione più straordinaria da ricerca estrema che possiamo aspettarci nei prossimi anni? Pugno prima ci diceva avremo la tela del ragno, se ce la facciamo, perché forse non siamo così bravi da copiare così bene la natura. Il sogno quale potrebbe essere, Bosio? Ma Bosio. Diciamo, sempre nella logica di un po' copiare o ispirarsi a quello che avviene in natura, forse potrebbero essere dei materiali che siano in grado di autonomamente ripararsi quando sopravviene del danno, in qualche modo reagire agli stimoli esterni e adeguarsi automaticamente alle condizioni che vengono a crearsi, sia quindi dei meccanismi di autoriparazione sia dei meccanismi di autoriparazione. 349-238-6666, vorrei anche sapere quale potrebbe essere secondo voi l'elemento da copiare, forse dalla natura o comunque la grande invenzione che vi aspettereste. L'autoriparazione potrebbe non essere male, ma cosa facciamo se facciamo un incidente in auto, non andiamo più dal carrozziere e si ripara da sola? È fantascienza. Beh, certamente non parliamo di autoriparazione su delle strutture complesse come un'automobile, ma possiamo pensare a un materiale che, diciamo, alla microscala è in grado di riparare le microfratture che vengono a crearsi magari in seguito a sollecitazioni ripetute. Questo, ad esempio, in un'ala di aereo potrebbe risparmiare enormemente sui costi di risparmiare sui costi di manutenzione enormemente e aumentare molto la sicurezza. Pugno, chiedo anche a lei, la rivoluzione da dove potrebbe arrivare? Beh, no, per definizione non è facile da dirsi, nel senso che molto spesso le scoperte poi future sono state un pochettino non ce ne siamo mai aspettate, ecco. Sì, molto spesso, diciamo, c'è stato anche un po' di serendipity, un po' di, diciamo, di casualità nelle scoperte, quindi non è facile fare previsioni, per me addirittura della giornata stessa, non saprò bene come andrà a finire, figurarci se posso immaginare di fare previsioni con una certa attendibilità per quanto riguarda il futuro, no? È un po' come le previsioni del tempo, cioè alla piccola, tempi di scala molto molto piccoli, magari uno può pensare a qualcosa, ma più avanti effettivamente si fa molta fatica. Quella faccenda che si citava prima dei materiali che si autoriparano è una cosa che è comunque concreta, già esistono, un primo lavoro apparso negli anni 2000 in cui mostrava sostanzialmente il concetto, la bontà del concetto. Quindi non è assolutamente impensabile pensare a che in un prossimo futuro esistano dei materiali che veramente abbiano questa caratteristica. Per esempio possiamo pensare, non dico una macchina intera, ma a delle vernici, qualcosa già provano a fare, a delle vernici per esempio che riparano il grafio, tanto per dire. Sono cose che chiaramente possono avere implicazioni anche nello spazio, per esempio, dove è più difficile evidentemente andare a operare. È chiaro che il progettare e avere a disposizione materiali sia il feeling, cioè che si autoriparano, è effettivamente una buona cosa. In linea generale potrei dire che forse il breakthrough, diciamo, la cosa più la cosa che ci possiamo aspettare di impatto maggiore, anche se forse dirà poco ai radioascoltatori, è la possibilità di controllare i difetti nei materiali, cioè quello che oggi limita tantissimo le applicazioni, in qualche caso le aiuta. Perché, per esempio? Ma per esempio i difetti sono quelli che giocano, diciamo, giocano un ruolo più fondamentale in assoluto nella resistenza dei materiali. Quando noi abbiamo una fibra di vetro, no, le fibre di vetro sono quelle fibre molto piccole, no, whisker si chiamano, baffi, sono molto sottili di vetro, ebbene quelle cose lì resistono 100 volte il vetro alla scala tradizionale a cui noi siamo abituati, che è la scala della finestra. Questo perché materiali molto piccoli, strutture anzi molto piccole, hanno una probabilità di avere difetti più bassa. E quindi evidentemente, visto che vale quello che ho detto prima, cioè che la resistenza della struttura è dettata dal difetto più critico, allora noi osserviamo questa cosa, osserviamo che a piccola scala, essendoci difetti piccoli, la resistenza aumenta notevolissimamente. Questo ha l'implicazione triste alla grande scala, che significa che una finestra sostanzialmente ha una resistenza, per così dire, molto più bassa della resistenza ideale del materiale. Quindi i difetti giocano un ruolo limitante in assoluto. Poi c'è il fattore umano e quello che è successo invece nell'incidente aereo in Francia ce lo dimostra, perché possiamo avere i materiali migliori di questo mondo, ma poi ci siamo anche noi, c'è il fattore umano. Così vi anticipo già anche anche di cosa parleremo dopo il giornale radio delle 8. Sicurezza, scienza, futuro, materiali perfetti, ma poi ci siamo anche noi. 349-238-6666, aspetto ancora i vostri interventi. Vi chiedo anche cosa vorreste da questa scienza estrema. Pugno, mi ripete quanti soldi avete per la ricerca che state facendo in 5 anni? Ma abbiamo questo grant che abbiamo preso di 1 milione, poi l'European Research Council fortunatamente ce ne ha date anche altre 2, è un caso un po' particolare, l'altro anno ne ha assegnati 2 l'Italia, li abbiamo presi tutti e 2 noi, su per quanto riguarda il trasferimento tecnologico, ognuno di questi è da 150.000 euro, poi siamo coinvolti dentro un'altra grossa... E quindi i soldi sono tanti per portarci nel futuro. 349-238-6666, c'è... Come sempre ci sono gli aggiornamenti per chi viaggia, ci sentiamo però subito dopo ancora con i nostri ospiti, la scienza estrema. 24 mattino. Cosa ci aspetta il futuro? Vogliamo un po' immaginarlo questa mattina parlando di quella che ormai viene comunemente chiamata come la ricerca estrema, un grande sogno in qualche modo che dovrebbe disegnare quello che è il futuro. D'altra parte, se proviamo ad immaginarlo, forse 100 anni fa il cellulare, gli sms, i tablet e forse molto altro erano ben lontani anche solo dall'immaginazione. Allora perché non immaginare davvero che tra qualche anno potremmo avere a disposizione, un po' come Spider-Man, la tela del ragno? E ci stiamo lavorando seriamente con anche parecchi fondi per la ricerca. Chissà se davvero diventerà una certezza. Nicola Pugno, docente Dipartimento di Ingegneria Civile e Meccanica a Trento. C'è chi ci scrive che è una ricerca sprecata. Vogliamo cercare di capire perché una ricerca non è sprecata? E in fin dei conti forse è da questi sogni che derivano anche le novità più inaspettate? Sì, ma la ricerca è sprecata. Beh, immagino che ci siano persone che possono dire questa cosa. È un dato di fatto che poca della ricerca, una frazione piccola, ma questo è normale, fisiologico, una frazione piccola della ricerca poi in realtà ha delle conseguenze sulla società civile, diciamo, molto impattanti. Questo è un qualche cosa che di appunto di fisiologico, non è che si può attendere che la ricerca venga finanziata e poi da tutte le cose finanziate si ottengono dei risultati importanti, perché non è così facile purtroppo. Allora il giochino qual è? Il giochino è cercare di assegnare i fondi ai gruppi e alle realtà assolutamente più promettenti, ed è una cosa che non è facile da fare, perché comunque giudicare dei gruppi, giudicare delle persone singole rimane comunque una cosa complicata. C'è secondo me chi ci sta riuscendo, ma non solo secondo me, perché forse secondo me varrebbe poco, ma in Europa chi ci sta riuscendo benissimo, mettendo in campo dei referì, delle persone che hanno una grande esperienza, scienziati nei settori specifici, che è proprio l'European Research Council che dicevo prima, che sta finanziando moltissimi giovani, meno giovani a seconda delle tipologie di grant che ci sono, mandando sostanzialmente a prendere quella che secondo loro, sulla base di referì multipli, è l'eccellenza della ricerca, le cose più promettenti, e quindi sta facendo un lavoro che è assolutamente... Anche perché aggiungiamolo, poi non lamentiamoci se le novità arrivano tutte dagli Stati Uniti, se noi non sogniamo e non facciamo ricerca. Ecco, prima dell'ingresso dell'IRC la situazione era molto drammatica secondo me, i fondi tipicamente non si fa fatica ad assegnare bene i fondi, è una cosa complicata quasi come far ricerca, è una cosa che secondo me in Italia si faceva fatica a fare, si fa ancora fatica a fare. Fortunatamente l'Italia è in Europa, questo, e da qualche anno appunto l'European Research Council sta facendo delle cose che forse se le sognano anche un po' in America, a questo punto direi, perché ci danno per esempio questo grant, è un grant comunque da 1 milione di euro, con una libertà e con una facilità anche di gestione che è un'altra di quelle cose che spaventano e che oggi forse spaventano un po' di meno. Un grant per esempio che ha segnato ad personam, per cui io prima ero un'altra università, spostandomi ho potuto portarlo con me, una cosa che di solito non si poteva fare, quindi il grant non seguiva l'uomo, oggi invece il grant segue l'uomo, perché l'European Research Council semplicemente punta sugli uomini, eccetera, eccetera. Quindi certamente è una ricerca... Qualcuno l'ha convinto, nessuna ricerca è sprecata, nemmeno quella che fallisce, ci ha scritto qualche ascoltatore. Forse qualcuno in più siamo riusciti a convincerlo. Poi c'è, sì, c'è il fattore... È un commento estremo anche questo, sarebbe molto bello da lasciarci così col nostro caffettino mattutino con questa virtuale, cosa qua, offerto a tutti, anche agli ascoltatori, tanto è virtuale, ce la okay. Facciamo, poi di fondi ne abbiamo, mi pare di capire, per fortuna almeno questa volta, aggiungo. Ma poi c'è il fattore umano, perché molti nostri ascoltatori stanno tornando anche sull'altro tema che abbiamo un po' sollecitato questa mattina e ci torneremo, che è ancora quello di quel che è successo nell'incidente aereo. Fattore umano, ci scrive un pilota che tante volte però ha anche salvato tante vite. È vero, a volte il fattore umano è davvero la chiave in più, in un senso o nell'altro. Pugno, ci lasciamo direi anche con un'altra battuta, abbiamo l'ultimo minuto. Anche nella ricerca estrema, alla fine anche qui il fattore umano conta in un senso e nell'altro, il colpo di fortuna. Il colpo di fortuna, sì, prima l'ho chiamato casualità, sì, possiamo chiamarlo anche fortuna, ma insomma lo chiamerei più casualità. Tra l'altro anche il fattore umano rientra un po' nei serendipiti prima. Le serendipiti, sì. I difetti che citavamo prima effettivamente hanno lo stesso ruolo nei materiali che hanno negli uomini. Anche gli uomini sono sostanzialmente governati dai difetti. Questo che citavamo ultimamente purtroppo è un caso veramente estremo. Ma con la tela del ragno ripariamo anche i nostri difetti, dubito. No, lì diciamo c'è un'analisi, c'è un lavorio su se stessi, che è una cosa molto più complicata. Lì non ce la fate neanche voi. Bosia, d'accordo? Il fattore umano, quello è ancora un problema. O avete qualche sogno anche su quello e ci ripareremo anche noi in qualche modo? Il fattore umano però è quello che entra nella ricerca stessa, quindi... Diciamo, gli esiti della ricerca sono anche dettati da quelle che sono le esigenze più pressanti del momento, quindi la ricerca non è del tutto neutra, segue quello che sono le necessità del momento. Pugno, qual è il più grande sogno a proposito appunto di fattore umano? No, ci risentiamo fra 5 anni, fra 4 anni, quando la sua ricerca è finita, e cosa mi racconta? Beh, diciamo più che sul fattore umano, eventualmente sulle ricerche, ma sul fattore umano ho il grande sogno, che dire, cioè l'uomo è molto di più ovviamente con materiale, ma è un materiale vivente, è un qualcosa. E della sua ricerca, se ci risentiamo fra 5 anni, me la porta la tela del ragno davvero? Ma se sono ancora vivo, tra 5 anni si potrebbe sperare di avere anche delle tute dell'uomo ragno, secondo me. La seta del ragno è qualche cosa che già riusciamo a fare. Allora le meglio. Do appuntamento, fra 5 anni la voglio qui con la tuta davvero dell'uomo ragno e la tela del ragno a disposizione, per dimostrare che i soldi per la ricerca non sono sprecati. Un po' una provocazione. Grazie Nicola Pugno, docente dipartimento di ingegneria civile e meccanica a Trento, Federico Bosia dell'Università di Torino. Si chiama ricerca estrema, possiamo tradurla come futuro. 24 mattino. Minuti, buona giornata da Anna Migliorati, un giorno di riposo concesso a chiunque, quindi lasciamo Alessandro Milan questa mattina a dormicchiare un po' di più, i giornali però in edicola ci sono, noi siamo qui puntuali come sempre, Carmelo Lauricella in regia, la rassegna stampa, i giornali di oggi, giornali quotidiani che non potevano non aprire con la vicenda che ha sconvolto forse ancor più, osiamo dirlo, del terrorismo, forse ancor più di una tragedia per un guasto tecnico, il fattore umano, come l'abbiamo un po' tutti definito, e ne parleremo anche dopo il giornale radio delle 8, il fattore umano che ha sconvolto tutti nello schianto dell'Airbus. La scelta del copilota, uccidere tutti, così titola il Corriere della Sera, la vita segreta di Andreas, e la Repubblica, il mistero del pilota assassino, il Messaggero, la strage del pilota depresso, se depressione era, forse qualcosa di ancora più insondabile, osiamo dire. La Stampa, la strage assurda del bravo ragazzo, e ci ricorda la trappola della cabina antiterroristi, unico indizio, una depressione di 6 anni fa, bastava per capire che si sarebbe andati verso una tragedia del genere, forse no. Il pilota era depresso, titola Quotidiano Nazionale. Il Giornale, il titolo è provocatorio, si spinge ben oltre. Schettinen, il copilota tedesco dell'Airbus, ha fatto una strage per suicidarsi, peggio della Concordia. Libero, criminale lui e quelli che l'hanno fatto volare, soffriva di una grave depressione, ma Lufthansa ha deciso di affidargli le vite dei passeggeri. Grave, quanto, ci chiediamo, e come diagnosticabile. Avvenire, un disastro voluto, e sta forse in quel voluto davvero la tragedia, nelle mani di un pilota folle, il Secolo XIX, e anche Le Sole 24 Ore, Airbus, il copilota ha provocato lo schianto, tante le falle, tanti i sistemi da rivedere. L'altra notizia, ci torneremo più avanti, che c'è un po' su quasi tutte le prime pagine dei quotidiani, in gran parte occupate questa mattina dalla tragedia dell'Airbus, è il lavoro, così i posti fissi sono cresciuti, 79.000 in più, così il Corriere della Sera, ma è davvero questa forse la notizia che è un po' insieme all'Airbus il filo conduttore di tutti i quotidiani, che poi fanno, vedremo, anche scelte diverse anche all'interno. Il Sole 24 Ore, dicevamo, il copilota ha provocato lo schianto. Sistema da rivedere, scrive Gianni Dragoni. La spiegazione dell'atto volontario, cioè di un suicidio del pilota rimasto solo nella cabina, solleva interrogativi sulla sicurezza e sui controlli medici e psichici sui piloti. Ma, aggiunge Gilberto Corbellini, è possibile che una delle più sicure compagnie aeree, Lufthansa, abbia reclutato un pilota aspirante suicida, ovvero predisposto ad andare in sovraccarico, quel burnout di cui si parla in queste ore, e quindi a diventare depresso come conseguenza di stress prolungato? In altre parole, può essere che i test psicometrici a cui sono sottoposti i piloti per rilevare eventuali vulnerabilità psicologiche non abbiano consentito di capire che a quell'uomo non si doveva lasciar pilotare un aereo? E chiudiamo con questa carrellata di commenti sul Sole 24 Ore di quest'oggi, ma che ci dà in qualche modo forse un filo conduttore. Scatola nera nel cuore, scrive Elisabetta Rasi. Forse la risposta davvero è tutta qui. Tutti sanno che cos'è la scatola nera di un aereo, quello strumento che registra la navigazione e i dialoghi a bordo dell'apparecchio e che si interroga in caso di disastro. Ma nell'individuo, al posto di comando, come in ogni essere umano, c'è un'altra scatola nera. Qualcuno la chiama cuore, qualcun altro mente, oppure psiche. Questa scatola è molto più misteriosa dell'altra, molto più indecifrabile, e se l'individuo non esiste più, non è possibile neppure interrogarla. E qui sta il punto. Molti gli interrogativi, molte le domande sui quotidiani di quest'oggi. Qualcuno al 349-238-6666 ci scrive semplicemente: si chiama follia, ma forse è una cosa ancora più complicata. La vita segreta di Andreas, così su il Corriere della Sera di quest'oggi. Sta forse in chi era quest'uomo, questo ragazzo in fin dei conti 28 anni che ha preso in mano l'aereo e ha deciso che doveva scendere. Nessuno usa la parola suicidio, leggiamo dal Corriere della Sera, non è appropriata quando si mette fine a decine di altre vite. Nessuno, nonostante la depressione, racconta di un uomo che potesse pensare al suicidio. Da ragazzo, a qualche centinaio di metri da casa, un campo di aviazione era il suo sogno. Ancora teenager aveva preso lì la licenza per pilotare gli Allianti. Ieri Lufthansa ha parlato della sua carriera impeccabile al 100%, in grado di portare l'aereo. Non hanno però potuto dire chi fosse Andrea Lubitz e che uragano gli fosse scoppiato nella testa alle 10.30 di martedì 24 marzo. E allora, ancora sul Corriere della Sera, parla il Claudio Mencacci, direttore di neuroscienza al Fate Bene Fratelli di Milano. La sindrome del burnout, il bruciarsi tipico di professioni in cui le performance sono importanti, si può individuare prima? Risponde: intanto occorre premettere che la professione di pilota richiede le capacità psicofisiche molto elevati, continui cambi di ritmo, sonno, veglia e fusi orari. Ma basta davvero, davvero questo? Forse c'è anche altro, forse c'è la sottovalutazione in qualche modo del fattore umano. Sul Messaggero questa mattina scrive Giuliano da Empoli: il gesto folle che scardina ogni sicurezza, e forse arriva anche dalle nostre nuove paure. E a causa delle misure di sicurezza prese dopo l'11 settembre, scrive Giuliano da Empoli su Il Messaggero, che il pilota, rimasto chiuso fuori dalla cabina di pilotaggio, bloccata dall'interno, non ha potuto rientrare. Se gli stessi fatti si fossero prodotti prima di quella data, il suicida sarebbe stato neutralizzato, il pilota anziano avrebbe ripreso i comandi dell'aereo e la cosa sarebbe finita più o meno lì. Insomma, Giuliano da Empoli sostiene in qualche modo che è stata forse la troppa paura a creare regole che poi in qualche modo si sono rivoltate contro. Il fattore umano. Massimo Gramellini: la porta chiusa, il buongiorno questa mattina sulla Stampa, sta tutto lì, in quella porta chiusa. Lo immaginiamo all'imbarco o sulla porta della cabina prima del decollo, mentre sorride alla comitiva di turisti e fa un cenno di saluto alla scolaresca in gita premio. Dopo aver visto in faccia le persone che gli erano state affidate, come ha potuto tradirle? Scrive Massimo Gramellini. Non si può neanche dire che, accecato dal male insondabile, a un certo punto abbia creduto di essere rimasto solo. Se ha chiuso la porta per impedire al comandante di rientrare in cabina, significa che era consapevole della realtà. Per compiere l'atto che lo ha isolato dal mondo, doveva sapere che oltre quella porta c'era il mondo e che lui lo stava condannando a morte. Non basta la depressione a spiegare una strage così. E forse è davvero difficile spiegare in qualunque modo una strage così. Strage voluta, dicevamo, anche in qualche modo dalle misure di sicurezza, da quella porta che non si apre. La paura di volare. Ettore Livini sulla Repubblica. Stiamo facendo una carrellata, ma perché è un po' così quest'oggi. Ci cerca di dare delle spiegazioni. Sui quotidiani trovate tutte le sfaccettature di quel che è successo. Ettore Livini: la tragedia del volo è iniziata, anche qui la stessa tesi, l'11 settembre 2001, quando si è deciso di trasformare le cabine di pilotaggio in fortini inespugnabili. Tant'è che molte compagnie aeree, aggiungiamo, da ieri hanno deciso di cambiare. È possibile che si resti solo in cabina di pilotaggio? Livini risponde: in America no, ma in Europa sì. Negli Stati Uniti le regole impongono sempre la presenza di due persone ai comandi, e se uno dei due ufficiali esce, anche solo per andare in bagno, quel che è successo peraltro, il suo posto è preso da un assistente di volo. Entrambi, tra l'altro, devono pure, in teoria, indossare le maschere ad ossigeno per la sicurezza. In Europa questo non è obbligatorio. La regola della doppia presenza è imposta da Ryanair, guarda caso da una compagnia low cost, quelle che sono state emesse nelle prime ore sotto accusa. E continua Livini: non invece dalle principali compagnie di bandiera, Alitalia, EasyJet, Norwegian Airline hanno deciso di adottarla ieri. La Malaysian l'ha resa obbligatoria dopo la sparizione del volo della Malaysia Airline, l'MH370. Cosa può essere successo a bordo di quel volo? Risponde Livini: in base alle prime ricostruzioni, il comandante si sarebbe assentato per recarsi in bagno. Appena uscito, il copilota potrebbe aver spostato la leva sul famoso lock, isolandosi appunto in cabina. Poi, stando alle ricostruzioni, dalle 10.30 diretta. Alle 10.30 e 55 secondi ha dato il comando per abbassare la quota di volo da 38.000 piedi l'altezza di crociera a 96.000 piedi. Quando il comandante ha provato a rientrare, il secondo non ha semplicemente risposto. Il comando su Lock, nessuno è stato in grado di entrare per neutralizzarlo. Quello stesso comando che era stato introdotto dopo l'11 settembre per impedire che un terrorista facesse esattamente la stessa cosa. Lo ha fatto, pare, la depressione, quel burnout che il copilota, che avrebbe mandato in tilt il copilota, ma portato giù con lui altre 150 persone. Sono molte le domande, sono molti gli interrogativi. Già vi anticipo, ne parleremo anche dopo il giornale radio delle 8. 24 mattino. E rieccoci con i quotidiani quest'oggi in edicola. Abbiamo letto un po' quel che c'è oggi, le molte analisi sull'incidente, sullo schianto dell'Airbus e la scelta del copilota in qualche modo di uccidere tutti. Basta complottismo, perché le conferenze stampa di ieri sembrano aver dato questa come versione definitiva. Poi ci sarà ancora molto da capire, ma il complottismo non manca. E allora Corriere della Sera, sarà forse costume italico, chi lo sa, quegli olivi tra complottisti e tagliatori. Le proteste e i sospetti in Puglia dopo l'epidemia della ormai famosa xylella. Impariamo parole nuove in continuazione. Le minacce delle barricate, la xylella, il batterio che sta distruggendo gli olivi pugliesi, è proprio alla vigilia di Pasqua. La Puglia senza olivi sarebbe come Roma senza la Cappella Sistina, scrive Marco De Marco. Leggiamo dal Corriere della Sera. La xylella, il batterio dal nome leggero ma dagli effetti devastanti che attacca le piante, sembra più vivo che mai. Il tempo è passato invano, ora l'allarme è scattato per tutti, visto che un rimedio non si trova. L'Europa invita ad essere realisti. In una Puglia attonita con la minaccia delle barricate, la partita diventa politica, economica e identitaria. Identitaria per gli ulivi della Puglia. Pagina 26 del Corriere della Sera. Andiamo nelle pagine interne. La differenza tra nordità e sudità, tra l'essere middle europei o mediterranei, una volta il meridionalissimo Luciano De Crescenzo la spiegava così: loro condiscono il pesce con la maionese, noi con l'olio. Ma ecco, un altro sicuramente costume italico è quello appunto del complottismo, il fronte della pugliesità militante che minaccia barricate e fa proseliti dopo Giancarlo Caselli, che si occupa di criminalità in agricoltura e non esclude alcuna pista, e dopo Gian Maria Fara dell'Eurispes, che rimanda scenari da guerra chimica, ecco Sabina Guzzanti in Puglia per presentare il suo ultimo film. La spara più di tutti: è un complotto delle multinazionali, la xylella sarebbe arrivata dal Brasile, dai laboratori della società che fa capo alla Monsanto, dove il batterio sarebbe stato creato. Insomma, intanto è già arrivata nel Brindisino. Lunedì, nel piccolo centro di Oria, al confine tra le province di Brindisi, Taranto e Lecce, torneranno intanto le seghe a motore, perché gli ulivi intanto vanno tagliati, così da il Corriere della Sera. Sul Corriere della Sera un'altra notizia di oggi di carattere internazionale. Cambiamo scenario: lo Yemen nel caos della guerra, i sauditi pronti all'invasione, in Iraq bombe americane su Tikrit a fianco degli iraniani. Questo è lo scenario internazionale di cui più si parla sui quotidiani di oggi, e scrive Massimo Gaggi: gli americani in Medio Oriente, si incrina a questo punto l'asse con l'Iran, più debole il patto anti-ISIS, perché dietro ci sta anche questo. E se il disegno di Barack Obama, leggiamo Massimo Gaggi, che spiega davvero molto di questi scenari, se il disegno di Barack Obama era quello di siglare un accordo con Teheran sul nucleare per poi spingere l'Iran a giocare un ruolo di stabilizzazione in Medio Oriente, quello che sta accadendo in Yemen e in Iraq probabilmente lo costringerà a rivedere qualcosa, e di certo sarà tutto più complicato. Così i posti fissi sono cresciuti 79.000 in più i primi due mesi del 2015, dati positivi. Restiamo ancora sul Corriere della Sera, ma sono davvero dati positivi. Intanto comincio col raccontarvi una storia, una vicenda che riporta oggi invece la Repubblica, perché si è parlato di articolo 18, di Job Act, di nuove regole, il famoso contratto a tutele crescenti. Ebbene, sapete cos'è diventato l'articolo 18? Un benefit da assunzione. Pagina 14 della Repubblica. Novartis offre l'articolo 18 come benefit. L'azienda sminuisce, ma fatto sta che la Novartis, colosso del chimico farmaceutico, ha appena assunto 13 lavoratori nella sua sede di Varese, mettendo nero su bianco nel verbale di accordo la scelta di non applicare nei loro confronti le disposizioni del contratto a tutele crescenti e dunque di riconoscere l'articolo 18 a tutti. A tutto tondo. Spiegano i sindacati, non è vietato dalla nuova norma di disciplina, si può fare contratti individuali come in quelli aziendali, il giudice la riconoscerebbe come trattamento di miglior favore per il lavoratore e dunque l'articolo 18 diventa un benefit. Ma sono davvero positivi i dati arrivati ieri? Stando ai numeri, l'apparenza è quella, dicevamo, boom di contratti a tempo indeterminato. Terminato nei primi due mesi 79.000 posti di lavoro, un titolo tra tutti, quello della Repubblica. Andiamo allora nelle pagine interne però del Sole 24 Ore per cercare di capirlo questo numero. Ebbene, ci scrive l'analisi di Giorgio Pogliotti. Sì, primi segnali positivi, ma la disoccupazione resta da record, anche perché i numeri, come sempre, vanno letti. E un quinto delle assunzioni, scrive Giorgio Pogliotti, è stato fatto con contratti a tempo indeterminato a gennaio, quasi un quarto a febbraio. L'asticella si è alzata rispetto a quel 16% totalizzato in media nel 2014, quando però non c'erano i forti incentivi. Si tratta di segnali positivi, ma è presto per lasciarsi andare a facili entusiasmi. Il vero test lo avremo nei prossimi mesi, quando si avrà un quadro completo delle assunzioni e delle cessazioni, e si potrà tracciare davvero un bilancio, anche perché il cuore del Job Act è entrato in vigore lo scorso 7 marzo. Sarà interessante verificare che grado di appeal avrà per le imprese. D'altra parte l'Istat, ci dice Giorgio Pogliotti, ci segnala anche che l'aumento della disoccupazione interessa soprattutto persone in cerca di lavoro da almeno 12 mesi, ovvero la disoccupazione di lunga durata. E poi ci sono quei 2,5 milioni di giovani che non lavorano e non seguono percorsi scolastici. Più di 1 su 4, il triplo della Germania. E allora, già che siamo sulle pagine del Sole 24 Ore, ti ho rubato un po' il mestiere, buongiorno. Buongiorno. Eccolo, buongiorno. Il nostro Merza. Buongiorno Mauro Merza. Ma che bella voce, finalmente. Hai visto voce Alessandro, com'è cambiato voce? Così no, all'improvviso. No, Alessandro, guarda, non so dove sia, forse è andato a ritirare i due urini da dove li aveva posizionati. Tra l'altro oggi sul Sole 24 Ore torniamo, naturalmente, come succede spesso in queste settimane, sulla voluntary disclosure, ma a Carana si può anche dire rientro dei capitali e quindi rientro dei due urini. Chissà, forse ha letto stamane questa cosa ed è subito partito lasciandoti il microfono. Parliamo questa volta di rapporti con i testati, può darsi che fosse interessato alla vicenda. Sì, sentivo appunto che parlavi di lavoro. Vorrei dare nella complicata trattativa dei bancari, di cui quasi quotidianamente diamo conto, c'è qualche spiraglio. Le parti si vedranno probabilmente tra lunedì e martedì. Martedì è considerato un po' il giorno, non essendoci Alessandro lo posso dire, decisivo. No, speriamo che però lo sia. E poi ti volevo dire, sempre sul Sole 24 Ore, le poste che confermano la discesa o l'ascesa, non saprei come dire, in borsa. L'intervista a Francesco Caio, sì, poste pronte per Piazza Affari. E poi c'è da verificare, e oggi potrebbe essere un giorno molto importante, come funzionerà però il servizio, perché ci sono state anche polemiche e anche questioni che hanno interessato i giudici per l'organizzazione del servizio, con la possibile chiusura di alcuni uffici. Quindi vedremo oggi che cosa dirà l'autorità delle comunicazioni. Ne è riferito sempre nell'intervista che appunto segnalavi. Poi naturalmente lunedì sì, sarà un giorno decisivo, magari non ci sarà Alessandro, che sarà ancora trattenuto. No, lo liberiamo, lunedì lo liberiamo. Ah, vabbè, ma anche no, ma anche il martedì, mercoledì, vabbè che tanto in questo momento il campionato è fermo ed è fermo per davvero, ma lunedì sarà un giorno importante perché parleremo con il ministro a tutto lavoro. Non stai parlando di calcio, vero? No, assolutamente no, non mi permetterei mai. Ci sarà tutto lavoro lunedì, Anna, tutto lavoro, che è la manifestazione Sole 24 Ore, proprio per approfondire nuove regole sul lavoro. È atteso anche il ministro, sarà possibile seguire la manifestazione verso la sede del Sole, ma anche in altre modalità. Spieghiamo come nelle pagine Indovinalo Tu, dove parliamo di tutto lavoro, non farmi fare cattiva figura, nelle pagine di Norme e tributi, bravissima. Mitiche. E allora, avrei molte altre cose da dirci, ad esempio che... Allora, segnaliamo anche l'intervento di Giorgio Quinzi, presidente di Confindustria, in prima pagina oggi su Sole 24 Ore, ritornare ai grandi valori per rispondere alla crisi. Aggiungiamo anche questo, aggiungiamo anche il MUDEC, Milano, il motore della cultura, perché... L'apertura di questo museo che ci ha coinvolto come Sole 24 Ore, che invitiamo tutti a visitare se vengono a Milano, ad esempio per l'Expo. Ti segnalo da ultimo, c'è fino alla possibilità di un bonus per gli alberghi. Ieri ad Alessandro ne riferivo uno per il wifi, oggi per anche le ristrutturazioni, l'eliminazione delle barriere architettoniche. Attenzione alle pagine imprese e territori, quindi non fate confusione tra norme e tributi e imprese e territori. E in ultimo, sì, c'è un problemuccio con la tenuità del reato, sai, in quella sorta di depenalizzazione che è stata varata, e la guida in stato di ebbrezza. 24 mattino. Rieccoci con i quotidiani questa mattina in edicola. C'è ancora tempo per farvi arrabbiare, ve lo dico. Andiamo sulla prima pagina della Stampa. Campagne elettorali, il grande business, ai partiti più soldi di quelli che spendono. Andiamo un po' a sfrucogliare tra i soldi della politica, il business delle campagne elettorali, scrive quest'oggi la Stampa. Le campagne elettorali si confermano un business, un investimento quasi sicuro che porta in media un guadagno netto pari al 20% del capitale investito. Vi chiedo chi non firmerebbe subito per un 20% così pronto ad arrivare in tasca, ma potrebbe anche andare meglio. I numeri che riporta quest'oggi la Stampa: i partiti hanno speso 45,4 milioni di euro per la campagna elettorale, totalmente finanziati con donazioni privati o con fondi già presenti nelle casse del partito. Per dire, avevano a disposizione 46,8 milioni di euro, quindi più di quello che hanno speso, ma dallo Stato ne riceveranno 54. Per capirci meglio, scrive la Stampa, è come se il dipendente di un'azienda in trasferta per lavoro raccogliesse 350 euro da amici e parenti per pagarsi le spese e che a fronte di una reale spesa di soli 300 euro, quindi già 50 gliene restano in tasca, ne ricevesse 400 dal suo lavoro di lavoro, quindi altri 100 che restano in tasca. Ma, aggiunge la Stampa, il datore di lavoro in questo caso siamo noi. Ma non è tutto, perché ovviamente questi 54 milioni non sono gli unici che i partiti riceveranno da qui al 2016. Il PDL è stato quello che nel 2013 ha investito più soldi, 12 milioni di euro, poco male, visto che i rimborsi gli garantiranno un ritorno di 18,8 milioni. Ma l'investimento più riuscito è quello del PD, scrive la Stampa. La non vittoria è costata 10 milioni, ne ha portati nelle casse del Nazareno ben 23, ma poi, se andate a vedere, ci hanno guadagnato, diciamolo, un po' tutti. E allora, se così è, perché non dovrebbe in qualche modo guadagnarci anche qualcun altro, ci chiediamo? Ovviamente in maniera provocatoria, ma vi porto nelle pagine interne della Repubblica, pagina 21. La Casa d'Oro, un'altra Casa d'Oro, in questo caso del soprintendente di Genova. Arrivano gli ispettori, bufera su due ristrutturazioni a Palazzo Reale e all'Abbazia di San Giuliano. Che è successo? Arriveranno nei prossimi giorni gli ispettori del ministro per i beni culturali Delio Franceschini al Palazzo Reale di Genova, sede dell'ex direzione regionale per i beni culturali della Repubblica. Cosa cercano? Bilanci, documentazioni sugli appalti, e proveranno a ricostruire la vicenda della ristrutturazione dell'appartamento dell'ex direttore Maurizio Galletti. Denunciano i sindacati Con un blitz nell'agosto del 2012 ha raddoppiato l'alloggio di servizio, trasformando gli uffici pubblici della soprintendenza per i beni architettonici in vani della sua foresteria privata. Stanze pregiate con dorature e stucchi settecenteschi formavano l'appartamento del principe Oddone di Savoia e per questo altri sovrintendenti avevano garantito la fruibilità pubblica. Lui che ha fatto? Ha pensato bene di farsene la sua dimora privata, così almeno pare. Arriveranno gli ispettori. Di fronte a questo quasi impallidisce la vicenda del sindaco di Roma, ricorderete la famosa panda rossa. Libero non la perde di vista e quest'oggi scrive: Marino ha venduto la panda alla moglie, è sempre in divieto ma con un'altra targa. Voleva dire di no quando la panda passò. Ignazio Marino, come Massimo Ranieri, era proprio convinto. Voleva dire di no alla sua auto rossa che tante grane gli aveva procurato e per questo l'aveva messa in vendita, deciso a disfarmene. Solo che poi, proprio come recita la canzone, che ci volete fare, non ha potuto resistere, ha detto di sì e l'ha ceduta a sua moglie. Prezzo di favore 900 euro, pronta consegna, sistema usato, familiare sicuro. Così racconta oggi Libero, la famosa panda rossa. C'è tempo, sì, sono le 7:52 minuti, ancora un paio di minuti li abbiamo e allora vi racconto anche un'altra storia, Quotidiano Nazionale in questo caso, Il Giorno. Ricorderete le polemiche alla Scala di Milano per il famoso concerto del 1° maggio in vista dell'Expo, se ne farà un altro anche il 30 aprile. Sapete quanto frutterà in busta paga? Un più 580% per orchestrali e coristi, dai quali si attende ancora un sì o un no. Allora, pagina 15, Quotidiano Nazionale, Il Giorno, Il Resto del Carlino, La Nazione. Per il concerto in Piazza Duomo del 30 aprile un più 580% in busta paga per esibirsi nel cuore di Milano col tenore Andrea Bocelli a poche ore dall'esposizione universale, una cifra che servirà, a meno di sorprese dell'ultima ora, a chiudere la polemica su un altro evento organizzato in extremis, una polemica legata, inutile negarlo, a quella che a febbraio aveva messo in dubbio la Turandot del 1° maggio. In questo caso i soldi sono davvero tanti, più 580%. E allora in qualche modo restiamo nell'ambito della Scala o comunque della musica classica, del balletto in questo caso, perché del tema si parla spesso quando si tratta di donne, ma anche gli uomini non sono esenti, anche gli uomini 40 anni li compiono e anche gli uomini un giorno o l'altro la carriera devono lasciarle. L'intervista sul Corriere della Sera, Roberto Bolle: danzo a 40 anni e non temo l'età, non è più un tabù, non è solo un tema femminile. Ora danza con i 40 anni, sono una stella, il ritiro è lontano, un'età avanzata per un ballerino normale. Ammette Bolle. Per tutte le star vanno al di là dell'età pensionabile, in generale per un ballerino è 45 anni anche alla Scala, nella media è un'età giusta, dice Bolle, ma lascia sottintendere non per me. Non teme di diventare come quelli che non sanno lasciare il posto agli altri, così gli viene chiesto. Voler rimanere sul palco attaccato alle emozioni che si provano è qualcosa che ci sarà, ma penso di avere abbastanza sensibilità e intelligenza per capire quando dire basta. Sono davvero i 40 anni, la passione potrebbe essere trasformata nella ricerca di talenti. Ho una forma da ventenne, dice. Bilanci a 40 anni, più che altro sono le persone che hai attorno che te li chiedono. Tutti ti fanno notare l'importanza della data. Il bilancio per me è certamente positivo, non solo per quello che sono riuscito a fare, ma per il calendario dei prossimi mesi. E allora, a 50 anni sarà ancora sul palco? Gli chiedono. Silenzio. Perché no? 10 anni passano in fretta. Così Roberto Bolle, sono i 40 anni la data per lasciare, chi lo sa. Con questa riflessione però noi ci lasciamo, c'è GR24, torniamo subito dopo, ve lo ricordo ancora, parleremo del fattore umano, di quel che è successo in volo sull'Airbus. 24 mattino. Scusa Jimmy, vado un attimo in bagno. Sì, fai pure. Mentre tutti mangiano c'è meno gente. Torno subito. I'll be back to you. ma durante l'assenza del capitano sul volo della Egyptair avviene qualcosa di imprevisto. Il destino di tutti è nelle mani del copilota, proprio l'unico che non doveva neanche stare ai comandi. Mi affido a Dio. Lottando disperatamente contro l'assenza di gravità, il capitano cerca di tornare in cabina. Il 31 ottobre 1999, volo Los Angeles-New York, il Cairo, era già accaduto. Il copilota ai comandi, l'aereo che si inabissa nell'Oceano Atlantico con 217 persone a bordo. Il sospetto terrificante del suicidio, se così vogliamo chiamarlo, ma anche su questo ci sarebbe molto da discutere. Fa più paura del terrorismo, fa più paura dell'incidente, il fattore umano, come l'abbiamo definito. Ci sarebbe questo dietro quel che è accaduto nella tragedia in Francia dell'Airbus precipitato e di 150 vittime? Saluto Alessandro Santori, pilota comandante di un A320 all'Italia, lo stesso dell'incidente. Buongiorno. Buongiorno. E con noi anche Marco Giovanniello, consulente per la SEA, la società che gestisce gli aeroporti milanesi, appassionato di aerei, scrive sugli Stati Generali. Buongiorno anche a lei. Buongiorno. Allora, i nostri ascoltatori dico che potete tranquillamente chiamarci, anzi vogliamo discutere anche con voi, sentire anche le vostre opinioni. Che succede? Il fattore umano fa ancora più paura dell'incidente, fa ancora più paura del terrorismo e soprattutto possiamo tornare a volare sicuri? Questa è una fatalità umana. Abbiamo sentito Indagine ad alta quota, forse qualcuno di voi lo conosce, è un programma del National Geographic Channel. Alessandro Santori, accade così su un aereo, si sta ai comandi in due, uno deve uscire e l'altro resta un uomo solo ai comandi? In questo caso lo diciamo anche con un pizzico forse di preoccupazione. Beh, no, preoccupazione no, può succedere una situazione come lei ha descritto, ci sono comunque delle procedure che possono essere implementate per evitare che ciò accada, ma come diceva prima è una cosa che non poteva essere preventivata o comunque assolutamente inaspettata, un'eventuale azione di questo genere, perché ricordo dobbiamo ancora attendere risultati definitivi. Certo, le indiscrezioni vanno tutte in una certa direzione, però beh, anche un po' più di indiscrezioni, detto che siamo assolutamente d'accordo, bisogna attendere quel che c'è di definitivo, ma ieri gli inquirenti l'hanno detto e l'hanno detto lasciando tutti veramente senza parole. Marco Giovanniello, forse troppo presto hanno parlato? Non lo so, io credo che ci sia stata comunque la spinta a dare informazioni, sicuramente per tranquillizzare chi vola sul fatto che Germanwings è una compagnia inerentemente sicura. Cioè, perché chiaro, tranquillizza di più dire che la compagnia è sicura e che l'errore o il fattore è stato umano? Io preferisco sapere che c'è un pilota impazzito piuttosto che sapere che ci sono migliaia di aerei Airbus 320 potenzialmente pericolosi. 800-24-0024, la pensate così anche voi? Pilota impazzito, anche su questo forse bisognerebbe discutere, perché si dice che di test se ne fanno e se ne fanno tanti. Santori, quanti ne ha fatti nella sua carriera? Guardi, una miriade. Noi facciamo test psicoattitudinali ovviamente all'ingresso, come tutte le aziende, prima di essere assunti, ma poi in particolare i piloti facciamo due o tre controlli l'anno, sia per la parte tecnica e sia sulla parte non tecnica, le cosiddette non technical skills, e quindi proprio il fattore umano veniamo valutati per certi aspetti proprio nell'integrazione con l'altro membro d'equipaggio dentro una cabina di pilotaggio. Perché viene valutata anche la coppia in qualche modo? Assolutamente sì, assolutamente sì. Bisogna essere compatibili oltre che adatti? No, non compatibili, cioè si viene verificato il livello di poter interagire nel modo corretto con l'altro membro d'equipaggio, e questo è un aspetto tipicamente del fattore umano. Il fatturo umano nelle operazioni di volo viene esaminato da parecchi anni e quindi su questa strada, insomma, diciamo, siamo molto avanti nel nostro settore. Il pilota era a fianco del copilota fino a un attimo prima, è uscito, è andato in bagno, è presumibile che fosse tranquillo. Si sta a stretto contatto, Santori? Cioè, è possibile? È quello che ci si chiede, accorgersi che la persona a fianco a noi, alla quale si sta affidando anche la propria vita, perché poi sull'aereo c'è anche il pilota, così, dia segni di assoluta tranquillità? O in quel momento si è talmente concentrati su quello che si sta facendo che tutto questo non lo si nota in qualche modo? No, guardi, noi quello che riusciamo a notare è chiaro che se è visibilmente rilevabile viene notato. Beh, è chiaro che il collega, qualora, le ripeto, fosse confermata questa dinamica, è chiaro che il collega ha evidentemente ritenuto sicura la situazione, se no, altrimenti non si sarebbe mosso da quella posizione, questo è ovvio. Però insomma, ecco, oltre, lei prima diceva pilota tra virgolette impazzito, a noi piace anche introdurre un altro discorso, il pilota stressato, cioè andiamo a vedere anche un po' al di là di questa dinamica particolare che sicuramente ha clamore, perché un incidente aereo purtroppo porta un certo numero di vittime contemporaneamente, fa molto più effetto un incidente aereo che un incidente di macchina, tanto per essere chiari. Però voglio dire, dietro a queste dinamiche, dietro a questa vicenda potrebbero nascondersi e celarsi altri tipi di problematiche, tipo lo stress indotto dalla fatica operazionale negli equipaggi di volo per le turnazioni di volo che a volte sono abbastanza pesanti. Ecco, si è parlato anche del sonno veglia del Giovanniello, voliamo troppo in qualche modo. Cerchiamo anche di capire, questa compagnia fa capo alla Lufthansa, che è una compagnia considerata sicura, non è una low cost to cure. All'inizio il gioco era stato anche abbastanza facile. Si vola troppo, ci sono troppe esigenze di volo, troppe compagnie, e quindi, come diceva Santori, il fattore umano dipende anche da questo? Ma allora, io non credo affatto che si voli troppo, cioè non mi sembra, cioè troppo poi rispetto a che cosa? Potremmo ipotizzare che si voli troppo rispetto alla capacità del traffico aereo, ma così non è, perché tutte le normative di sicurezza vengono stabilite e se non c'è più spazio per volare non si vola. Allora è chiaro che adesso c'è una pressione sui costi, perché ci sono meno margini di una volta, per cui diciamo che dai piloti si prende forse un impegno maggiore, ma io non credo che questo, adesso poi naturalmente parliamo di una persona che è morta, e sulla sua vita privata, sui suoi tunnel, su quant'altro, ancora tutto da capire. Riccardo D'Aosta ci ha chiamato all'800 24 00 24, buongiorno. Sì, buongiorno. Io ho chiamato per questo motivo, perché poche settimane fa ho visto su Sky un servizio di indagini ad alta quota, quello che vi abbiamo riproposto. Sì, però sì, non lo so cosa avete riproposto. Volevo semplicemente dire che un caso simile è successo pochi mesi fa, nel caso della Malaysia Airlines, in cui il pilota di questo aereo si è suicidato depressurizzando la cabina, quindi facendo svenire tutti i passeggeri, e poi ha buttato l'aereo in mare. E facendoli svenire, sì, abbiamo mandato in realtà noi indagini ad alta quota del National Geographic Channel, e quell'altro era un altro caso, un volo Egyptair in quel caso, e parliamo del 1999. Sì, è evidente che il pilota ha in mano il destino in qualche modo. È un problema di procedura, non è un problema di individualità o di soggettività, voglio dire, non puoi andare a individuare la persona che in quel momento decide di suicidarsi, ci devono essere delle procedure, voglio dire, per tornare indietro. Grazie Riccardo D'Aosta, perché parleremo anche di questo, perché oggi c'è chi sostiene che forse le troppe invece misure di sicurezza che abbiamo introdotto dopo l'11 settembre, tra cui il famoso blocco della porta, in questi casi diventano invece un problema. 24 mattino. Ci spaventa e quanto costa il fattore umano? Possiamo immaginare sistemi di sicurezza fino all'infinito, ma poi ci sarà sempre il fattore umano. La vicenda dell'Airbus precipitato in Francia è conclusa, è questa la chiave di lettura. C'è ancora molto da capire. 800 24 00 24, Giovanni da Torino, buongiorno. Buongiorno. Allora, la mia domanda è questa: visto che il problema è nato questo blocco irreversibile dall'esterno della porta del cockpit. Il lock, sì. Allora mi domando, ma è stato fatto un test o quanti comandanti e quanti piloti in caso di un attacco terroristico che minaccia la vita di uno, due, tre, quattro membri dell'equipaggio e la mette in atto e quindi li uccide? Mm. Quanti sono questi comandanti che non sbloccano questa porta a fronte di uno, due, tre morti in rapida sequenza? Allora, questa lo chiediamo domanda proprio a un pilota che guida proprio lo stesso aereo, un A320. Santori, siete addestrati per usare questo lock? E poi le aggiungo anche, perché è un po' la domanda che serpeggia anche in queste ore, non è che i sistemi di sicurezza che abbiamo messo in campo dopo l'11 settembre forse vanno rivisti, o invece sono necessari e va bene così? Beh, guardi, sicuramente c'è bisogno di una riflessione a 360 gradi. I sistemi di sicurezza furono introdotti molto rapidamente perché all'improvviso fu utilizzato un aereo, in questo caso, nel caso delle Torri Gemelle, due aerei, come una semplice bomba, un proiettile. Quindi è chiaro che il provvedimento è stato preso per non far impossessare da parte dei malintenzionati, per non far dar modo loro di impossessarsi di un aereo e poterlo utilizzare proprio come una bomba. Per barricarsi in cabina. Esattamente, per barricarsi in cabina. Quindi, rispetto alla domanda che è stata fatta, questa barriera è stata inserita proprio per far sì che non venga aperta, ma mi sembra anche normale che sia così, perché se ci fosse una procedura alternativa, come la conoscono i membri dell'equipaggio, la potrebbe conoscere l'eventuale, tra virgolette, terrorista. Chi la conosce a bordo dell'equipaggio? A bordo dell'equipaggio, soltanto l'equipaggio che conosce un certo tipo di procedura, però è chiaro che dall'interno della cabina tutto di l'equipaggio, cioè dal pilota al copilota alle hostess, il comandante, il copilota e l'assistente di volo responsabile sono a conoscenza di questa procedura, però le ripeto, dall'interno questa procedura di richiesta di ingresso di emergenza può essere bypassata. Però vorrei tornare sul fattore umano, sì, che è un aspetto molto importante. Le ripeto, non è una questione di voler tra virgolette lavorare di meno, il discorso è di voler lavorare meglio. Quindi, siccome le compagnie aeree da molti anni investono nel fattore umano, ci sarà pure un motivo, e quindi considerare le turnazioni di certi vettori o di comunque di tutte le compagnie per far sì che vengano ottimizzati e soprattutto rendere le norme che limitano l'impiego degli equipaggi di volo assolutamente non interpretabili è fondamentale per la nostra rappresentanza sindacale, nel senso che alcune norme sono di tipo facoltativo, altre sono interpretabili, e quindi lei capisce bene che operatori, diciamo così, tra virgolette, un po' più aggressivi di altri possono ritagliarsi. Però parliamo di una compagnia che fa capo a Lufthansa, della quale tutto sommato... Assolutamente sì, l'asticella è uguale per tutti, l'asticella della sicurezza è uguale per tutti, però siccome alcune norme sono interpretabili... Dipende da come le applico. Esatto, e quindi nel rispetto delle norme un operatore può far volare degli equipaggi un po' di più, diciamo così, e un altro operatore, applicando la stessa norma in un altro modo, li fa volare un po' di meno. Allora, Giovanniello, sta qui il nodo? In quanto investiamo? Allora, mi dispiace contraddire il comandante, ma... Allora sì, c'è una possibilità che questo pilota fosse stressato per il lavoro, però probabilmente io penso che uno che fa di mestiere il pilota e che porta la responsabilità di centinaia di altre persone, e diciamoci chiaro, voglio dire, se questo invece di pilotare un 320 avesse pilotato il 380 avrebbe portato con sé 500 vite umane invece di 150, molto più probabilmente. Ne bastano 150 personali per farne una tragedia, non ne farei una questione di numeri di passeggeri. Guardi, sarebbero 350 morti in più, e io preferisco che ci siano 350 morti in meno. Allora, ma il concetto qual è? Sappiamo che aveva avuto dei problemi di depressione, quindi aveva dei problemi personali. Poi è chiaro che se uno lavora 8 ore al giorno è più stressato che 4 ore al giorno, ma il problema è altro. Quello che vorrei sottolineare è che purtroppo la sicurezza aerea avanza su un cumulo di morti. Noi abbiamo, come ricordava il comandante, dovuto in emergenza fare in modo che... Ma è il fattore umano insondabile o qualcosa che non funziona nel meccanismo? Senta, il suicida lo troverà sempre. Il problema è che qua abbiamo un suicida che si porta dietro altre centinaia di persone. Mi scusi, qui è una questione di ordine di grandezza. C'è chi è disperato perché viene abbandonato dalla moglie e uccide i propri figli, cioè non si vuole suicidare da solo. Qui abbiamo un caso del genere, solo che questo si è portato ma a... Ma sono 150 persone. Fabrizio, certo. Fabrizio da Milano, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Ma dunque io ho una domanda molto semplice, adesso ho sentito le dinamiche sindacali, aspetterei almeno 7 giorni per elaborare il brutto. Parlo da frequent flyer Lufthansa, faccio circa 400.000 miglia, e io in 20 anni penso di aver visto il comandante di Lufthansa o altre compagnie due o tre volte in tutta la mia vita. È possibile che su una tratta così piccola da Barcellona a Düsseldorf, che sarà, cosa sarà, un'ora scarsa, abbia sentito l'esigenza di uscire? Non sto sindacando nulla, sto semplicemente dicendo è un fatto strano. Forse non lo capiremo mai, forse lo sentiremo dalle registrazioni delle scatole nere. Certo, se aveva bisogno di uscire non credo si possa vietare di andare in bagno. Roberto da Milano. Salve, buongiorno. Io volevo sottolineare un altro argomento che non è ancora venuto fuori, e da ieri che ascolto la radio, ascolto le notizie come tutti voi. C'è un problema gravissimo che sta accadendo, che è quello dei copiloti. E c'è anche un film che lo denuncia in Francia, un film amatoriale fatto da dei piloti, da dei copiloti, eccetera, dove questi copiloti non vengono pagati, addirittura pagano per poter volare. Non a caso anche questo copilota faceva lo steward poco prima di iniziare a fare il copilota. Questa credo sia una cosa di grande gravità che sia da verificare. Allora, non intendo dire che questo sia il caso, però non credo. Ho fatto una verifica su tutto il mondo dei copiloti, perché i copiloti... Guardi, credo che la vita di questo copilota sarà controllata fin nei più piccoli particolari. Alessandro Santori, mi par di capire che insomma non siamo a questi livelli. A quali livelli intende? Io rispetto le opinioni di tutti, rispetto al rappresentante della sera, io non mi riferivo a questo episodio in modo particolare. No, ma mi riferivo all'ascoltatore che diceva non era nemmeno pagato. Non credo, insomma. Vede, cominciano a venire fuori i problemi, quello che le diceva. Purtroppo, siccome che le dicevo prima, quindi siccome purtroppo ci sono delle norme che sono interpretabili, ci sono alcuni operatori un po' arrembanti, diciamo così, che mettono in atto anche soluzioni di questo tipo. Quindi rispetto a quell'incidente della Germanwings non c'entra nulla, ma la riflessione, le ripeto, va fatta a 360 gradi se veramente vogliamo cambiare qualcosa nel mondo aeronautico, perché purtroppo ci possono essere anche realtà di questo tipo e quindi per contrastarle non si può far altro che mettere in piedi un impianto di norme univoco che tutti rispettino nello stesso modo. E che non ci sia adito a interpretazioni, lei dice. Esattamente. Le chiedo, le è mai capitato di avere la tentazione di schiacciarlo quel pulsante lock nella sua carriera? No, per fortuna non mi è mai capitato. Ma se dovesse capitare di accorgersi che fuori sta succedendo qualcosa, lo schiaccerebbe indipendentemente da quello che sta succedendo fuori? Guardi, noi siamo addestrati per fare questo. Poi la domanda che lei mi sta facendo implica anche, diciamo così, delle valutazioni di tipo personale e umano che devono essere fatte solo e possono essere fatte solo ed esclusivamente trovandosi di fronte a una certa situazione. E questo è il punto, ci si può addestrare fino all'estremo, ma poi nella situazione concreta come reagisce il fattore umano resta un'incognita. Così come lo resta probabilmente quel che ha vissuto il pilota che, come dicevamo prima, probabilmente è uscito da quella cabina di pilotaggio assolutamente tranquillo, perché altrimenti non avrebbe lasciato il suo copilota, e che non si aspettava nulla e che al di là della regola in uno o in due in cabina in quel momento ha fatto una valutazione lasciando il collega da solo. Ci ha raggiunto nel frattempo Antonio Chialastri, esperto proprio di fattore umano, membro del Centro Studi Consulente per l'Aviazione. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Troppa sicurezza dopo l'11 settembre? Prima domanda. E seconda, quanto conta ancora il fattore umano? Una prima domanda, la sicurezza non è mai troppa. Il livello accettabile di incidente è zero. Per l'aviazione commerciale è quella che spende più soldi in assoluto sulla sicurezza. Non esiste nessun altro settore che investa così tanto in procedure di sicurezza, addestramento. Perché tra l'altro la sicurezza è un concetto anche paradossale, perché quando c'è non si vede, tant'è che ne parliamo quando manca. La seconda cosa invece riguarda quello che mi avevi chiesto, la seconda domanda mi ha chiesto il fattore umano. Allora, un nostro ascoltatore ci scrive all'8 349 238 6666: al posto del copilota mettiamoci un robot, così evitiamo errori umani. C'è da dire, aggiungo, che forse qualche volta proprio il fattore umano invece ha salvato delle vite. 24 mattino. All the person remaining in the cockpit has to do is to lock the door. Less than a minute after disabling the FDR. È ancora indagine ad alta quota. National Geographic Channel ci ancora fornisce lo spunto sonoro per forse raccontare quel che potrebbe essere successo, ma insomma quel che viene avvalorato in queste ore nell'incidente aereo in Francia. Antonio Chialastri, dicevamo del fattore umano. C'è chi suggerisce tra i nostri ascoltatori un controllo in qualche modo da remoto, un lock che in qualche modo si sblocchi. Diciamo anche che il fattore umano a volte è stato esattamente il contrario, cioè quel che ha salvato. Esattamente così. Guardi, le cito una frase non mia, di Turing, Alan Turing, cioè il padre della moderna cibernetica, cioè quello che ha inventato l'antesignano del computer, quindi chi più di lui, no? Col computer, le macchine. E diceva: se una macchina è infallibile, non sarà intelligente, e se è intelligente, non sarà infallibile. Questo è il problema, cioè rimpiazzare l'essere umano con la macchina sposta il problema altrove, ma il problema rimane, perché la macchina comunque la fa un uomo. E questo è un dibattito che va avanti da circa 30 anni, no? Sull'automazione delle macchine, sul fatto di sostituire l'uomo con una macchina che non ha emozioni. In realtà quello che dice lei è assolutamente corretto, cioè l'essere umano spesso e volentieri fa la sicurezza. È quel quid che riesce a colmare quel, come dire, quello scarto che c'è tra la regola e la realtà. Quel che lei diceva, la sicurezza non è mai troppa, vale per i controlli sulle macchine. Ma la sicurezza dei controlli su quello che definiamo ancora una volta fattore umano? Ecco, questo qui è interessante, perché sempre per tornare al discorso di prima, l'aviazione, avendo speso molti soldi, è stata la prima industria ad investire sul fattore umano, cioè ha capito la rilevanza del fattore umano nell'assicurare la sicurezza. Cioè si fanno dei corsi per i piloti ab inizio, cioè dall'inizio, anche durante la carriera, e sono continuamente rafforzati questi concetti sul fattore umano. Perché? Perché lavorare bene in gruppo è una condizione preliminare per ottenere sicurezza, nel senso che oggi per noi è scontato, per esempio i medici si stanno accorgendo adesso che la maggior parte degli errori sono errori umani, cioè errori dovuti al fattore umano, quindi lavorare lì, noi abbiamo avuto un punto di svolta nel 77. Sarà un punto di svolta quel che è accaduto in qualche modo? C'è qualcosa da cambiare? Guardi, in realtà questo a livello come dire, paradigmatico non è un punto di svolta, secondo me. Ci sarà una procedura che andrà a sostituire quella attuale probabilmente, cioè due persone in cabina, ma fondamentalmente su milioni e milioni di piloti questo è un caso veramente raro, no? Raro, certo. È raro, ovviamente nessuno poi è al di sopra, non siamo esseri umani, questo bisogna... Non siamo al di sopra dell'errore. Alessandro Santori, hanno investito su di lei come fattore umano, come pilota del A320? Assolutamente sì, come le ho detto all'inizio e come confermava il collega, l'industria aeronautica si è resa conto proprio di questo, e non escludo che questo tipo di investimento sul fattore umano debba essere anche, come dire, riportato anche in altri settori, perché penso che ne so, alle sale operatorie piuttosto che ai treni, piuttosto che altre realtà lavorative. Quindi il fattore umano è importantissimo e su di noi si investe. E ce lo stanno chiedendo in molti, perché non succede coi buscoli, perché parliamo di 150 persone a bordo. Domenico da Monza, buongiorno. Buongiorno, volevo premettere una cosa, io sono un pilota privato e sto studiando per ottenere la licenza teorica di pilota di linea e quella di pilota commerciale. Presso una scuola di volo del nord Italia. Le hanno fatto già i controlli psicologici, psicoattitudinali? Assolutamente sì, io alla vista. Cosa le hanno chiesto? Presso l'Istituto di Medicina Legale di Linate. Cosa le hanno chiesto e che controlli allora le hanno fatto? Qualche anno fa c'era la normale visita dallo psicologo che faceva... Per normale visita cosa intende? 5 minuti, domande, un quarto d'ora, 3 ore? Domande personali. Poi c'era un test psicoattitudinale di circa 500 domande che erano le uniche risposte erano sì o no, e le domande erano svariate, dal per esempio vuoi bene i tuoi genitori, ti piacciono i fiori, perché vuoi fare il pilota, vuoi fare il pilota. Ma lei pensa che con domande... queste domande abbiano capito chi è lei? Guardi, io penso di sì, però comunque quello che volevo puntualizzare è che noi piloti, sia quando siamo in una scuola di volo, sia dopo in compagnia, facciamo diversi corsi per quanto riguarda il fattore umano, da human performance durante il corso a scuola e dal corso cockpit crew resource management durante la fase di abinistica in compagnia. Quindi sì. Un pilota, già da questo si può vedere com'è, qual è la come reagiste. Antonio, esatto. Antonio Chialastri, è così che si investe sul fattore umano? Ci vuole altro? Sì, allora, intanto la formazione, facciamo selezione, quindi il filtro iniziale, poi c'è la formazione, cioè l'imprinting che l'organizzazione dà, poi c'è un addestramento periodico e ci sono i controlli. Lei consideri che ogni mediamente, ogni 40 giorni un pilota viene controllato da qualcuno, perché ci sono esami al simulatore, esami nel volo di linea, ci sono riunioni dentro le aule per fare addestramento, più ci sono esami medici e c'è anche un controllo a campione. Non c'entra nulla compagnia low cost, scelte e discrezionalità, come si diceva prima, questi controlli si fanno a prescindere. Guardi, in realtà su questo argomento io non lo so, perché non ho mai volato con compagnie low cost, però il concetto è che il pilota viene controllato più che con i test psicologici, che lasciano il tempo che trovano, secondo me, inizialmente, anche perché una persona... Vuoi bene ai tuoi genitori, insomma, voglio dire, esatto, chiunque che trova. Mette una in X... Realtà, noi andiamo in giro nel paese, non andiamo in giro con lo psicologo che ci dice quella persona, ci fa un profilo psicologico delle persone che incontriamo. Il fatto di ruotare gli equipaggi, cioè di far volare sempre con persone diverse, assicura un controllo sociale che fa prima o poi qualcuno se ne accorge, questo è il concetto. Abbiamo ancora pochissimi secondi, una domanda velocissima e voglio una risposta secca. Voliamo tranquilli, Chialastri? Più che tranquilli. Santori, chiedo anche a lei, voliamo tranquilli domani mattina? Assolutamente sì. Marco Giovanniello, consulente SEA, voliamo tranquilli? Sì, esattamente, tanto tranquilli quanto attraversiamo la strada, sapendo che può esserci un passo che ci mette sotto. E che con tutte le sicurezze e i controlli resta appunto il fattore umano. 8:55 minuti, dobbiamo salutarci qui da Anna Migliorati. Ancora una buona giornata. La squadra, Lorenzo Nespoli, Elisabetta Fusconi, Alessandro Longoni, Carmelo Lauricella in regia, come sempre puntuale lunedì mattina, tornerà anche Alessandro Milan. C'è GR24, intanto da Anna Migliorati, ancora buona giornata. 24 mattino.